Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Introduzione di Giorgio Ficara. Buongiorno, sono Giorgio Ficara e stiamo parlando dei tre moschettieri di Alexandre Dumas. Che libro meraviglioso su cui la lode stessa si infrange, evapora. Di questo libro, Flaubert, che è un autore ovviamente lontano le mille miglia da Dumas, diceva che per leggere I Tre Moschettieri, e peraltro tutti gli altri romanzi di Dumas, non è necessaria, diceva, alcuna iniziazione. Come dire, noi leggiamo I Tre Moschettieri, li troviamo divertenti, siamo assolutamente distratti da tutto mentre leggiamo, per qualche ora, per più ore, ma poi, chiuso il libro, non ci rimane alcuna impressione e possiamo tornare, diceva Flaubert, ai nostri affari. Ecco, è un bene, è un male che per leggere I Tre Moschettieri non sia necessaria alcuna iniziazione, che chiunque possa leggere questo libro e capire, cioè, per dir meglio, possa accedere al suo puro e folle divertimento, cioè possa distrarsi, in effetti, entrando in questo mondo perfetto, lasciando immediatamente ad apertura di pagina il nostro, che non è così perfetto, il nostro mondo imperfetto. Ecco, quando D'Artagnan, il protagonista, il personaggio principale di questo libro, entra in scena con quel suo cavallo giallo, ve lo ricordate, poi imitato peraltro da quello più guittesco e surrealistico di Brancaleone nel film famoso con Gassman, ecco, quando entra in scena con quel suo cavallo e con quel suo pochi soldi, pochi quattrini, quel peculio miserabile e peraltro la sua contrastante opposta alterigia di Guascone, noi sappiamo subito di volergli bene per sempre. Non vediamo l'ora che agisca, che si batta, che si faccia strada per Parigi, dove peraltro è diretto per fare fortuna come moschettiere di Treville. Vogliamo vederlo all'opera, lo seguiamo, affascinati, ammirati, al convento dei Carmes de Chaussée, cioè dei Carmelitani Scalzi, dove si batterà a turno, o dovrebbe battersi a turno con Athos, Porthos e Aramis. D'Artagnan è coraggioso, è pazzo, ma anche intelligente e buono come nessuno di noi sarebbe mai in nessuna vita. Quando si innamora della deliziosa guardarobiera della regina, che si chiama Madame Bonacieux, sposata al buffo e sordido, meglio buffamente sordido Bonacieux, l'avventura ci sembra dovuta, celestiale, e tutti quanti spiamo un po' tra le quinte, oltre quella, come dice Dumas, quella soglia di quel paradiso terrestre che si chiama amore. E poi Athos è un eroe notturno, cupo, sprezzante, elegante, con il suo amore alto, sventurato per la nera Milady. Porthos, questo enorme damerino, questo apprendista dandy, impacciato, un po' intralciato nella comprensione stessa della consecuzione degli eventi, ma feroce, spadaccino. Ecco, questo Porthos è irresistibilmente simpatico. Aramis è uno strepitoso casista, moralista, attento e sottile come un gesuita, alle prese con il dovere a religione di Agostino e coi dilemmi della coscienza sua e altrui, ma soprattutto altrui in effetti, ma innanzitutto anche lui l'ama infallibile. Ecco, D'Artagnan, che è il vero, come dicevamo, protagonista del romanzo, è due volte meritorio e godibile, in quanto tiene insieme questa compagnia, questa comunità eterogenea, la rende unica e mitica. Quando i moschettieri arrivano in scena, quando arrivano insieme armati fino ai denti e furibondi, oppure irresistibilmente, contagiosamente allegri, è come un'aria che conosciamo e che risuoni e ci trasporti via. Dunque, è proprio vero, aveva ragione Flaubert, nessuna iniziazione per questo libro, nessuna scuola, nessun metodo, nessun apprendimento. Siamo trasportati così come siamo, intelligenti o pedanti come siamo, in mezzo all'avventura. La letteratura è anche questa antiletteratura, e anche I Tre Moschettieri. Buon ascolto. Il primo lunedì del mese d'aprile 1625, i paesi di Meung, dove nacque l'autore del Roman de la Rose, appariva in completo subbuglio, proprio come se gli ugonotti fossero venuti a tentare una seconda Rochelle. Parecchi borghesi, vedendo le donne scappare in direzione della Grande Rue e sentendo i bambini strillare sulla soglia degli usci, si dirigevano verso la locanda del Franck Meynier, davanti alla quale si affollava, infittendosi di momento in momento, un gruppo compatto, rumoroso e pieno di curiosità. A quel tempo gli spaventi non mancavano e pochi giorni trascorrevano senza che l'una o l'altra città registrasse nei suoi annali qualche fatto del genere. C'erano i signori che guerreggiavano fra loro, c'era il re che faceva guerra al cardinale, c'era lo spagnolo che faceva guerra al re. E poi, oltre a quelle guerre sorde o manifeste, segrete o aperte, c'erano ancora i rapinatori, i mendicanti, gli ugonotti, i lupi e i servi che facevano guerra a tutti quanti. I borghesi si armavano immancabilmente contro i rapinatori, contro i lupi, contro i servi, spesso contro i signori e gli ugonotti, talvolta contro il re, mai però contro il cardinale e lo spagnolo. Risultò dunque da tale abitudine che quel suddetto primo lunedì del mese d'aprile 1625, i borghesi, udendo tanto strepito e non vedendo né il guidone giallo e rosso né la livrea del duca di Richelieu, si precipitarono verso la locanda del Franck Meynier. Una volta colà, ognuno poté vedere e riconoscere la causa del frastuono. «Un giovanotto! Buttiamone giù il ritratto! Immaginate Don Chisciotte a 18 anni. Don Chisciotte senza corsaletto, senza giacco e senza gambiere. Don Chisciotte rivestito d'un farsetto di lana il cui colore blu s'era mutato in una tinta indefinibile fra feccia di vino e azzurrina. Viso lungo e bruno, zigomi sporgenti, segno di scaltrezza, muscoli mascellari sviluppati enormemente, indizio da cui si riconosce infallibilmente il guascone, anche senza berretto, e il nostro giovanotto ne portava uno ornato di una specie di piuma. L'occhio aperto e intelligente, il naso a uncino, ma di linea elegante, troppo alto per un adolescente, troppo basso per un adulto. Un occhio poco esperto avrebbe potuto scambiarlo per il figlio di un fittavolo in viaggio, se non fosse stato per la lunga spada che, appesa a un cinturone di cuoio, sbatteva sui garretti del proprietario quando era in piedi e sul pelo irto della cavalcatura quando era in sella. Difatti, il nostro giovanotto aveva una cavalcatura, e questa era così degna di nota che venne notata. Era un ronzino del Béarn, già sui 12 o 14 anni, giallo di mantello, senza crini alla coda, ma non senza giarde alle zampe. Pur procedendo con la testa più bassa delle ginocchia, cosa che rendeva inutile l'applicazione della correggia, faceva però lo stesso le sue 8 leghe al giorno. Disgraziatamente le qualità di questo cavallo erano così ben nascoste sotto l'insolito pelame e sotto l'incongrua andatura che in un tempo in cui tutti si intendevano di cavalli, la comparsa del suddetto ronzino a Meung, dove era entrato da circa un quarto d'ora per la porta di Beaugency, produsse una sfavorevole impressione che si ripercosse sul suo cavaliere. Tale impressione era stata tanto più penosa per il giovane D'Artagnan, così si chiamava il Don Chisciotte di quest'altro ronzinante, in quanto egli non si nascondeva il ridicolo che gli procurava, per quanto fosse buon cavaliere, una simile cavalcatura. Ragion per cui aveva sospirato parecchio nell'accettare il dono che gliene aveva fatto a Monsieur D'Artagnan padre. Non ignorava che un simile animale valeva almeno 20 livres. È vero che le parole con cui era stato accompagnato il regalo non avevano prezzo. «Figlio mio», aveva detto il gentiluomo guascone in quel puro dialetto del Béarn dal quale Enrico IV non era mai riuscito a liberarsi, «Figlio mio, questo cavallo è nato nella casa di vostro padre. Or son quasi 13 anni, e da allora vi è rimasto, il che deve spingervi ad amarlo. Non vendetelo mai, lasciatelo morire tranquillamente e onorevolmente di vecchiaia. E se farete con lui una campagna, risparmiatelo come risparmiereste un vecchio servitore. A corte, continuò D'Artagnan padre, seppure avrete l'onore di andarci, onore a cui d'altronde la vostra antica nobiltà vi dà diritto, sostenete degnamente il nome di gentiluomo che degnamente fu portato dai vostri antenati per oltre 500 anni. Per voi e per i vostri, e per vostri intendo i parenti e gli amici, non tollerate mai nulla tranne che dal cardinale e dal re. Con il coraggio, non dimenticate, con il coraggio soltanto un gentiluomo oggi si fa strada. Chiunque trema un attimo lascia forse sfuggire l'esca che proprio in quell'attimo la fortuna gli tendeva. Siete giovane, dovete essere coraggioso per due motivi. Primo, perché siete guascone. Secondo, perché siete mio figlio. Non temete le occasioni e cercate le avventure. Vi ho fatto imparare a maneggiare la spada. Avete garretti di ferro, pugno d'acciaio. Battetevi per qualunque cosa. Battetevi tanto più che i duelli sono proibiti e che, di conseguenza, ci vuole doppio coraggio per battersi. Figliolo, non ho da darvi altro che 15 scudi. Il mio cavallo e i consigli che or ora avete ascoltato. Vostra madre vi aggiungerà la ricetta di un certo unguento avuta da una zingara che possiede la miracolosa virtù di guarire qualsiasi ferita che non raggiunga il cuore. Mettete a profitto tutto e vivete felice e a lungo. Non mi rimane che da aggiungere una parola. Voglio alludere a Messier de Treville, un tempo mio vicino, il quale ebbe l'onore di giocare da bambino con il nostro sovrano Luigi XIII, che Dio lo conservi. Talvolta i loro giochi degeneravano in zuffe, e in quelle zuffe il re non era sempre il più forte. Le stoccate ricevute gli diedero molta stima e amicizia per Messier de Treville. Più tardi questi si batté con altri nel suo primo viaggio a Parigi 5 volte. Dopo la morte del defunto re, fino alla maggiore età del sovrano, senza contare le guerre e gli assedi, 7 volte. E dalla maggiore età fino ad oggi, forse 100 volte. Così, nonostante gli editti, le ordinanze e i decreti, eccolo capitato dei moschettieri, cioè capo di una legione di Cesari che il re tiene in gran conto, che il cardinale teme, lui che non teme nulla o quasi, come ognun sa. Per di più, Messier de Treville guadagna 10.000 scudi all'anno, dunque è proprio un gran signore. Ha incominciato come voi. Andate da lui con questa lettera e seguite il suo esempio. Uscendo dalla camera paterna, il giovane trovò la madre che l'aspettava con la famosa ricetta, la quale, grazie ai consigli sopra riferiti, avrebbe richiesto un uso piuttosto frequente. Con lei gli addii furono più lunghi e più teneri, non perché Messier d'Artagnan non amasse il figlio, che era la sua unica progenitura, ma egli era un uomo e avrebbe considerato indegno d'un uomo abbandonarsi all'emozione, mentre Madame d'Artagnan era donna e per di più madre. Ella pianse a calde lacrime e, diciamolo a lode di D'Artagnan figlio, per quanto si sforzasse di restare saldo come doveva esserlo un futuro moschettiere, la natura lo vinse ed egli versò copiose lacrime che con grande fatica riuscì a nascondere. Quel giorno stesso il giovane si pose in cammino munito dei 3 doni paterni che constavano, come abbiamo detto, di 15 scudi, del cavallo e della lettera per Messier de Treville. Come ci si può immaginare, i consigli erano stati dati per soprammercato. Con un simile vademecum, D'Artagnan si trovò a essere spiritualmente e fisicamente una copia esatta dell'eroe di Cervantes, al quale l'abbiamo così felicemente paragonato quando i nostri doveri di storico ci hanno costretto a tracciarne il ritratto. Don Chisciotte scambiava i mulini a vento per giganti e i montoni per eserciti. D'Artagnan scambiò ogni sorriso per un insulto e ogni occhiata per una provocazione. Il risultato fu che egli tenne costantemente i pugni serrati da Tarbes fino a Meung e che portò la mano all'impugnatura della spada circa 10 volte al giorno. I pugni però non colpirono nessuna mascella, né la spada venne tratta dal fodero. Non che la vista del malaugurato ronzino giallo non facesse spuntare più di un sorriso sul volto dei passanti, ma siccome al di sopra del ronzino tintinnava una spada di ragguardevoli proporzioni e al di sopra di essa brillava un occhio più feroce che fiero, i passanti reprimevano l'ilarità, o se questa aveva il sopravvento sulla prudenza, perlomeno cercavano di ridere con un solo angolo della bocca, come le maschere antiche. D'Artagnan mantenne quindi altera e inviolata la sua suscettibilità fino a quella disgraziata città di Meung. Ma colà, mentre smontava da cavallo la porta del Franc Meunier, senza che nessuno, locandiere, servitore o palafreniere, si fosse presentato a reggergli la staffa al montatoio, D'Artagnan adocchiò a una finestra socchiusa del pianterreno un gentiluomo ben fatto e di nobile aspetto, sebbene il volto esprimesse un lieve corruccio, il quale discorreva con due persone che sembravano ascoltarlo con deferenza. Naturalmente, secondo il suo solito, D'Artagnan credette di essere l'oggetto della conversazione e stette in ascolto. Questa volta s'era ingannato solo in parte. Non si trattava di lui, ma del suo cavallo. Il gentiluomo sembrava elencarne agli uditori tutte le qualità, e poiché, come ho già detto, costoro mostravano nei confronti del narratore una grande deferenza, scoppiavano a ridere ogni momento. E siccome bastava un mezzo sorriso a destare l'irascibilità del giovanotto, si capisce quale effetto producesse su di lui quell'eccesso di ilarità rumorosa. Tuttavia D'Artagnan volle prima rendersi conto della fisionomia dell'impertinente che si burlava di lui, fissò lo sguardo fiero sullo sconosciuto e scorse un uomo tra i 40 e i 45 anni, dagli occhi neri e penetranti, dal colorito pallido, dal naso fortemente pronunciato, dai mustacchi neri tagliati alla perfezione. Le brache e il giustacuore, benché nuovi, sembravano gualciti come abiti da viaggio rimasti a lungo rinchiusi in una sacca. D'Artagnan notò tutti questi particolari con la rapidità dell'osservatore attentissimo e spinto senz'altro da un sentimento istintivo che gli diceva che lo sconosciuto avrebbe avuto un grande peso sulla sua vita futura. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il Terzo Anello @rai.it